Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Lo stupore dei pickwickiani era così totale e la perplessità di Mr. Pickwick così grande che avrebbero potuto restare esattamente nella stessa posizione fino a quando i sensi smarriti della signora non fossero tornati, se non fosse stato per un'espressione molto bella e toccante di affetto filiale da parte della sua tenera prole. Stretto nel vestituccio di velluto con bottoni di metallo di notevoli proporzioni, il ragazzetto si era fermato dapprima sulla porta, tra la meraviglia e l'incertezza, ma a poco l'impressione che sua madre avesse subito qualche affronto personale si fece strada nella sua mente in via di maturazione, e considerando Mr. Pickwick come l'aggressore, emise un ululato raccapricciante e disumano, e scagliandosi a testa bassa si diede a colpire la schiena e le gambe di quell'uomo immortale con pugni e pizzicotti, con tutta la forza delle sue piccole braccia e con tutta la violenza della sua eccitazione. «Toglietemi di torno questa piccola canaglia», disse torcendosi Mr. Pickwick. «È diventato matto!» «Che cosa è successo?» balbettarono i tre pickwickiani. «Non so», rispose Mr. Pickwick rabbiosamente. «Portate via il ragazzo!» E qui Mr. Winkle trascinò l'interessante ragazzino che strillava e si divincolava con tutto il corpo fino alla parete opposta della stanza. «E adesso aiutatemi a portare la donna al piano di sotto!» «Oh, ora mi sento meglio!» disse la signora Bardell con un filo di voce. «Vi accompagnerò io al piano di sotto», disse Mr. Tupman, sempre galante. «Ah, grazie, signore, grazie», esclamò la signora Bardell con voce isterica, e così fu accompagnata al piano di sotto insieme a quel suo figlio così affezionato. «Non riesco a capire», disse Mr. Pickwick, quando Mr. Tupman fu di ritorno. «Non riesco a capire che cosa sia successo a quella donna. La stavo semplicemente informando che ho intenzione di assumere un domestico quando è caduta in quell'incredibile parossismo in cui l'avete trovata. Una cosa veramente incredibile.» «Veramente», dissero i tre amici. «Che vi ha messo in una situazione estremamente imbarazzante», continuò Mr. Pickwick. «Estremamente», fu la risposta dei suoi seguaci, che si raschiarono leggermente la gola e si diedero qualche occhiatina dubitosa. Il loro comportamento non sfuggì a Mr. Pickwick. Egli notò la loro incredulità. Era chiaro che lo sospettavano. «In corridoio c'è un uomo che vi aspetta», disse Mr. Tupman. «È l'uomo di cui vi parlavo», disse Mr. Pickwick. «L'ho mandato a chiamare stamattina al Borough. Dategli una voce, Snodgrass, e siate così gentile». Mr. Snodgrass fece come gli era stato detto, e Mr. Samuel Weller si presentò immediatamente. Vi ricordate di me, non è vero?» disse Mr. Pickwick. «Direi di sì», rispose Sam ammiccando con aria di protezione. «Volevo parlarvi di una cosa. Sedete.» «Grazie, signore», disse Sam, e sedette senza farselo dire due volte, dopo aver posato il suo vecchio cappello bianco sul pianerottolo fuori della porta. «Adesso veniamo alla ragione per cui, d'accordo con questi signori, vi ho fatto chiamare», disse Mr. Pickwick. «Questo è il punto, signore», interloquì Sam. «Sputate fuori, come disse il padre al bambino che aveva inghiottito un soldo. Vorremmo sapere per prima cosa», disse Mr. Pickwick, «se avete qualche ragione per essere scontento del vostro impiego attuale». «Prima di rispondere a quella domanda lì, signore», rispose Mr. Weller, «io vorrei sapere per prima cosa se avete intenzione di procurarmene uno migliore». Un raggio di serena benevolenza illuminò i lineamenti di Mr. Pickwick mentre rispondeva. «Sono quasi deciso ad assumervi io stesso». «Davvero?» disse Sam. Mr. Pickwick fece un cenno di assenso. «Salario?» chiese Sam. 12 sterline all'anno», rispose Mr. Pickwick. «Vestiti? 2. Lavoro? Stare a mia disposizione e viaggiare con me, questi signori». «Ah, togliete l'avviso qui, si loca», disse Sam enfaticamente. «Sono affittato a un signore solo e sulle condizioni si è raggiunto un accordo». «Accettate l'impiego?» chiese Mr. Pickwick. «Sicuro», rispose Sam. «E se i vestiti vi andranno bene come il posto, mi andranno a pennello». Thank you. Capitolo sedicesimo. Troppo pieno di avventure per farne un breve estratto. Non c'è mese dell'anno in cui la natura si rivesta di un aspetto così bello come in agosto. Una morbida dolcezza sembra pervadere tutta la terra. L'incanto della stagione sembra estendersi perfino al carro, il cui lento avanzare sui campi ben falciati è percettibile solo alla vista, mentre il cigolio delle ruote non arriva a colpire l'udito. L'effetto di una simile scena non andò perduto per lo spirito equilibrato di Mr. Pickwick, tutto preso dalla sua risoluzione di smascherare la vera personalità dello scellerato Jingle. Dovunque stesse tramando i suoi piani fraudolenti, se ne stava dapprima pensieroso e taciturno, rimuginando sul modo migliore di attuare il suo proposito. Dopo mezz'ora, Mr. Pickwick sedeva davanti a un gradevolissimo pranzo. Al pasto si rese ampia giustizia, e quando ebbero finito di mangiare e furono tutti seduti intorno alla tavola, Mr. Pickwick, con profondo orrore e indignazione dei suoi seguaci, raccontò quale avventura gli era capitata e come il successo aveva arriso alle basse mene del diabolico Jingle. «E l'attacco di reumatismi che ho preso in quel giardino», disse a conclusione del racconto, «non mi consente ancora di camminare». «E anch'io ho avuto una mezza avventura», disse Mr. Winkle con un sorriso, e richiestone da Mr. Pickwick fece un rapporto circostanziato sul perfido trafiletto dell'indipendente di Eatonsville e sui sentimenti che aveva suscitato nel loro amico direttore. L'occhio di Mr. Pickwick si rabbuiò durante il racconto, i suoi amici se ne accorsero e le ultime parole di Mr. Winkle caddero nel più profondo silenzio. Allora Mr. Pickwick batté un gran pugno sulla tavola e parlò come segue. «Non vi siete mai chiesti», disse Mr. Pickwick, «perché noi dobbiamo essere destinati a non poter entrare in casa d'altri senza trascinarli in qualche guaio? Non è questa la prova, vi domando, dell'indiscrezione o peggio ancora della malvagità, sono costretto a dirlo, dei miei seguaci, che sotto qualsiasi tetto si posino, turbano la pace dell'anima e la felicità di qualche donna fiduciosa? Non è, dico...» E con tutta probabilità Mr. Pickwick avrebbe proseguito per un pezzo se l'entrata di Sam con una lettera non avesse interrotto il suo eloquente discorso. Si passò il fazzoletto sulla fronte, si tolse gli occhiali, li pulì, li rimise e la sua voce aveva riacquistato la solita dolcezza di tono quando disse: «Di che cosa si tratta, Sam?» «Sono stato chiamato proprio adesso all'ufficio postale e ho trovato questa lettera che è rimasta giacente per 3 giorni», rispose Mr. Weller. «È sigillata a secco e l'indirizzo è pieno di ghirigori». «Non conosco questa calligrafia», disse Mr. Pickwick aprendo la lettera. «Pietà di noi! Che cos'è? Deve essere uno scherzo! Oh no, no, non può essere vero!» «Cos'è successo?» chiesero tutti gli altri. «Nessun morto, spero!» disse Wardle impressionato dall'orrore che si leggeva sui lineamenti di Mr. Pickwick. Mr. Pickwick non rispose motto, ma spingendo la lettera attraverso la tavola e chiedendo a Mr. Tupman di leggerla ad alta voce, ricadde sulla sua sedia con uno sguardo vitreo, molto allarmante a vedersi. Mr. Tupman, con voce tremante, lesse la lettera che qui sotto riportiamo. «Freeman's Court, Cornhill, 28 agosto 1830. Causa: Bardell contro Pickwick. Signore, avendo ricevuto mandato dalla signora Martha Bardell di promuovere un'azione contro di voi per mancata promessa di matrimonio, per la quale la querelante ha chiesto 1500 sterline di danni, ci pregiamo di informarvi che vi è stato ingiunto di comparire in causa davanti al Tribunale di Common Pleas e vi chiediamo di farci sapere a stretto giro di posta il nome dell'avvocato di Londra che accetterà di assumere il vostro patrocinio. Credeteci, signore, i vostri obbedienti servitori, Dodson e Fogg. Destinatario, Mr. Samuel Pickwick». C'era qualcosa di impressionante nel muto stupore con cui ognuno guardava il suo vicino e tutti guardavano Mr. Pickwick. Sembrava che avessero paura di parlare. Il silenzio fu rotto da Mr. Tupman. «Dodson e Fogg», ripeté meccanicamente. «Bardell e Pickwick», disse pensierosamente Mr. Snodgrass. «La pace dell'anima e la felicità di qualche donna fiduciosa», mormorò Mr. Winkle con aria trasognata. «È un complotto», disse Mr. Pickwick riacquistando alla fine la parola. «Un volgare complotto di questi due famelici avvocati, Dodson e Fogg. La signora Bardell non l'avrebbe mai fatto, non avrebbe cuore di farlo e non ci sono gli estremi per farlo. È ridicolo, ridicolo». «Nel suo cuore», disse Wardle con un sorriso, «voi sarete certamente il miglior giudice. Quanto agli estremi, non voglio scoraggiarvi, ma devo dirvi che certamente Dodson e Fogg sono giudici molto migliori di chiunque di noi». «È un vile tentativo di estorcermi del denaro», disse Mr. Pickwick. «Ve lo auguro», disse Wardle, raschiandosi la gola. «Chi mi ha mai sentito parlare diversamente da come un inquilino qualunque parla alla sua padrona di casa?» continuò Mr. Pickwick con grande veemenza. «Chi mi ha mai visto con lei? Nemmeno i miei amici qui...» «Tranne una volta», disse Mr. Tupman. Mr. Pickwick cambiò colore. «Ah?» disse Mr. Wardle. «Ecco, questo è importante, ma non c'era nulla di sospetto, no?» Mr. Tupman sbirciò timidamente il suo capo. «Ecco», disse, «non c'era niente di sospetto, ma io non so come sia accaduto, badate bene, ma certo lei gli si era abbandonata fra le braccia». «Dei del cielo!» esclamò Mr. Pickwick, mentre il ricordo di quella scena gli tornava vivamente alla memoria. «Qual tremendo esempio della forza degli avvenimenti! È vero, è vero!» «E il nostro amico stava consolandola nella sua angoscia», disse Mr. Winkle con un po' di cattiveria. «È vero», disse Pickwick, «non lo negherò, è vero». «Ehi là!» disse Wardle. «Per una relazione insospettabile, questo è abbastanza strano, Pickwick? Ah, sornione, sornione!» E rise fino a far tremare i bicchieri sulle mensole. «Quale terribile concorso di apparenze!» esclamò Mr. Pickwick, poggiando il mento sulla mano. «Winkle, Tupman, vi chiedo scusa di quello che ho detto poco fa. Tutti siamo vittime delle circostanze, e la maggior vittima sono io». E dopo essersi così giustificato, Mr. Pickwick si prese la testa fra le mani e meditò, mentre Wardle distribuiva in giro cenni del capo e strizzatine d'occhi all'indirizzo di tutti gli altri membri della compagnia. «Debbo chiarire la questione comunque», disse Mr. Pickwick alzando la testa e battendo la mano sulla tavola. «Andrò da Dodson e Fogg. Andrò a Londra domani». «Domani no», disse Wardle. «Siete ancora troppo male in gambe». «Bene, dopodomani allora». «Dopodomani è il 1° di settembre. Voi siete assolutamente impegnato a venire con noi fino alla tenuta di Sir Geoffrey Manning a mangiare con noi se non uscite a caccia». «Bene, allora è il giorno seguente», disse Mr. Pickwick. «Giovedì. Sam?» «Signore», rispose Weller. «Fissate 2 posti esterni per Londra sulla Corriera di giovedì mattina, per voi e per me». «Benissimo, signore». Mr. Weller lasciò la stanza e se ne andò lentamente a fare la commissione, con le mani in tasca e gli occhi bassi. «Strano uomo il principale», diceva fra sé Mr. Weller camminando lentamente per la strada. «Fare il cascamorto con quella signora Bardell, con un bambino per giunta. Sempre così questi vecchi. Da qualsiasi parte li giri, anche se sembrano duri come il ferro, a vederli. Però non l'avrei mai creduto, non l'avrei mai creduto». Moralizzando su questo tono, Mr. Samuel Weller volse i suoi passi verso il botteghino dei biglietti. Thank you. L'ufficio degli impiegati dei signori Dodson e Fogg era una stanza buia e muffita, che sapeva di stantio, con un alto tramezzo a pannelli di legno per proteggere gli impiegati dagli sguardi del volgo, un paio di vecchie seggiole di legno, un orologio a pendolo che faceva un gran chiasso, un calendario, un portaombrelli, una fila di attaccapanni e alcuni scaffali dove giacevano pile di incartamenti polverosi, ognuno col suo cartellino, qualche vecchio scatolone di etichette e numerose e sbreccate bottiglie di inchiostro fatte di terracotta in varie forme e dimensioni. Una porta a vetri dava sul corridoio che serviva da ingresso e dietro a quella porta si profilò Mr. Pickwick, subito seguito da Sam Weller, la mattina del venerdì successivo ai fatti fedelmente riportati nel capitolo precedente. «Avanti! Cosa aspettate?» esclamò una voce dietro il tramezzo in risposta al leggero colpo bussato da Mr. Pickwick alla porta. Mr. Pickwick e Sam entrarono. «C'è Mr. Dodson o Mr. Fogg?» chiese Mr. Pickwick gentilmente, avanzando verso il tramezzo col cappello in mano. «Mr. Dodson non è in ufficio e Mr. Fogg è impegnato», rispose la voce, e nello stesso tempo comparve dietro il tramezzo la testa corrispondente con una penna sopra l'orecchio e guardò Mr. Pickwick. Era una testa bitorzoluta, dai capelli rossicci, scrupolosamente divisi da una parte, appiccicati con la pomata e arricciati in tanti ciuffetti semicircolari intorno alla faccia schiacciata, guarnita di due occhietti piccoli e ornata da un colletto di camicia molto sporco e da una antichissima cravatta nera. «Mr. Dodson non è in ufficio e Mr. Fogg è impegnato», ripeté l'uomo a cui apparteneva la testa. «Quando tornerà Mr. Dodson, signore?» chiese Mr. Pickwick. «Non saprei. Ci vorrà molto perché Mr. Fogg sia libero, signore? Chi lo sa?» E l'uomo si mise tranquillamente a temperare la penna, mentre un altro impiegato che stava preparando la polvere per fare dell'acqua di seltz dietro il coperchio alzato del suo scrittoio rise in tono di approvazione. «Credo che aspetterò», disse Mr. Pickwick. Nessuno rispose. E allora Mr. Pickwick si mise a sedere di sua spontanea iniziativa. «Brava gente questa», sussurrò Mr. Weller al suo padrone, con un senso dell'umorismo molto simpatico. Mr. Pickwick assentì con un cenno del capo e tossì per attirare l'attenzione di quei giovani gentiluomini dietro il tramezzo, i quali ora, che avevano riposato il cervello con una piccola conversazione fra loro, si degnarono di accorgersi della sua presenza. «Chissà se Fogg è libero adesso», disse Jackson. «Andrò a vedere», disse Wicks, scendendo con tutto comodo dallo sgabello. «Chi devo annunciare a Mr. Fogg?» «Pickwick», rispose l'illustre personaggio di queste memorie. Mr. Jackson salì al piano di sopra per fare la commissione e tornò immediatamente comunicando che Mr. Fogg avrebbe ricevuto Mr. Pickwick entro 5 minuti e, detto questo, tornò al suo scrittoio.